Diciamo che sarebbe potuto andare peggio, io partirei da questo punto di vista, ossia AfD è cresciuta spesso, è cresciuta molto, però non c'è stato quell'effetto shock. Certo, chiaramente il 20% è una percentuale molto alta, ma si ipotizzava che dopo l'attacco di Monaco, di Baviera, dopo l'attacco con il coltello a Berlino, dopo quello che era successo ad Aschaffenburg, dopo quello che era successo a Magdeburgo, si pensava che AfD potesse crescere ancora molto, e invece non è stato così, è rimasta, insomma, ha confermato un po' quello che si leggeva nei sondaggi, e è un trend che ormai, insomma, la crescita di Alternative für Deutschland è un trend che ormai va avanti da molto tempo. È vero, raddoppia rispetto alle elezioni politiche precedenti, ma anche alle elezioni europee dello scorso anno aveva fatto molto bene Alternative für Deutschland. Dall'altra parte invece c'è la sorpresa della sinistra di Die Linke, che fino a un mese fa nemmeno era al 3% e adesso ottiene l'8,9%. Quindi possiamo dire che la società tedesca si sta polarizzando, quindi? Sì, direi proprio di sì, ed è un caso che non ci sia un Bundestag molto frammentato, ossia perché i liberali di FDP non entrano, hanno ottenuto il 4,33% e il partito di Sarah Wagenknecht ottiene il 4,9%. Nel caso in cui anche fosse entrato anche il partito di Sarah Wagenknecht, vi ricordo c'è uno sbarramento del 5%, sarebbe stato un Bundestag piuttosto frammentato, quindi sì, è polarizzato il paese, senza dubbio. Tra le prime dichiarazioni di Merz che abbiamo letto, almeno da quanto riportato dalla stampa italiana, c'è uno scenario internazionale, si parla di non inviare truppe all'Ucraina, l'indipendenza dagli Stati Uniti in tema di difesa. Sì, assolutamente sì, quello è una delle prime cose che ha detto, ma non è solo questo il tema del prossimo governo, sarà sicuramente anche quello dell'immigrazione. Vi ricordo, Merz ha spinto molto per una riforma del diritto di asilo, una riforma dell'immigrazione in Germania e anche l'economia, quindi rilanciare la Germania, rilanciare l'economia tedesca, la locomotiva d'Europa, ma sempre con questo sguardo sulla politica estera. Tra l'altro ha detto di, appena diventerà cancelliere, di voler andare a Parigi e a Varsavia per parlare con i rispettivi presidenti. Quello dell'SPD è stato un mezzo suicidio politico invece? Sì, diciamo che l'SPD era ampiamente atteso che ottenesse questo risultato, peraltro è il risultato peggiore dalla fondazione del partito, quindi dal 1890. Forse Olaf Scholz non era il candidato adatto, si era parlato molto di Boris Pistorius, che è il ministro, ormai ex ministro della difesa, uscente, diciamo, ministro della difesa di SPD, però poi si era optato per Olaf Scholz. Probabilmente anche un cambio al vertice, insomma, dello Spitzenkandidat non avrebbe cambiato molto. Ha sofferto SPD i litigi nel governo, ha sofferto diverse congiunture, ossia la guerra in Ucraina, la crisi dei gas, il Covid, insomma, diciamo che il governo uscente ha le sue colpe, ma sicuramente ci sono anche dei fattori esogeni, non è tutta colpa del governo. La Germania ora tornerà a livello europeo a essere, magari con l'asse con la Francia, a essere uno dei paesi che contano di più? Diciamo che questa è l'intenzione di Friedrich Merz, l'ha detto chiaramente, e il fatto che vada a Parigi e anche a Cracovia, la Polonia è un alleato importante per la Germania, significa proprio questo: la Germania vuole ritornare alla guida dell'Unione Europea, cosa che aveva un po' perso nell'ultimo periodo con questo governo.